L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti al consueto ripasso dell'ultima settimana di notizie per noi dell'ottavo giorno, cominciata sabato scorso 4 luglio e che si è conclusa ieri venerdì 10 luglio. Nettamente in primo piano, bisogna dirlo, il G8 che ha oscurato molti fatti che invece noi cercheremo proprio di recuperare, di far riaffiorare, a cominciare per esempio da quello che è successo nella politica italiana, da cui partiremo proprio con il nostro racconto. Sabato. Come sempre ci affideremo nel nostro racconto ai servizi che sono già andati in onda in questi giorni nei GR di Radio 24. Politica dunque, dicevamo, come prima notizia della settimana. La scena è stata rubata dal G8 che ha concentrato tutti gli sforzi di Berlusconi e del governo italiano, ma la vita parlamentare italiana prosegue anche con degli spunti, diciamolo pure, interessanti. Non sono mancate le schermaglie, ma persino gli sforzi per raggiungere alcune intese tra la maggioranza e l'opposizione. Un primo segnale, ad esempio, giunge già sabato e va a toccare un tasto molto sensibile sul quale poi si sono spesso e volentieri innescate delle terribili polemiche. Sto parlando delle intercettazioni, parola difficile e complicata e che appunto scatena spesso dissapori tra maggioranza e opposizione. Sentiamo le novità con Donatella Stasio. Nessuna blindatura, nessuna fiducia. Doveva essere una smentita, in realtà è stata la conferma che il governo, magari per mano di qualche senatore della maggioranza, modificherà il disegno di legge sulle intercettazioni. Il ministro della giustizia Angelino Alfano, irritato dalle indiscrezioni sull'incontro avuto venerdì al Quirinale, precisa che il testo all'esame del Senato non è immodificabile, che mai si era parlato di blindatura e tantomeno di fiducia, meno che mai di un percorso a rotta di collo, dice proprio così, a Palazzo Madama. Dice anche che dal capo dello Stato non ha avuto giudizi sul merito del provvedimento, che il governo considera robusto, ragionevole e condiviso persino da una parte dell'opposizione, tant'è che alla Camera è stato approvato con una ventina di voti del centrosinistra. Dal Quirinale però non arrivano smentite sulle indiscrezioni riportate dai quotidiani, cioè sulla necessità di modificare una serie di punti del provvedimento al limite della incostituzionalità. L'opposizione invita il governo a seguire il consiglio. Il segretario del PD Franceschini chiede di evitare forzature e di aprire un dibattito parlamentare sulle modifiche. Antonio Di Pietro è più radicale. Il testo va ritirato, non basta cambiare qualche aggettivo. La decisione però è tutta politica. Rischiare il muro contro muro e approvare subito il testo con qualche correzione formale, oppure andare avanti piano e con giudizio. In realtà le intercettazioni non sono un problema, una questione soltanto italiana. Per esempio, giovedì a Murdoch è stata inflitta una multa, pensate, di 1 milione di sterline, poco più di 1 milione di euro, perché dei giornalisti di un suo giornale, il News of the World, hanno violato la privacy di politici, attori e star dello sport. Di fatto hanno utilizzato mezzi illeciti per spiare, quindi intercettare conversazioni telefoniche private. Quindi la polemica è scoppiata anche in Gran Bretagna. Ma torniamo invece all'Italia e a domenica, quando riprende la battaglia durissima che da settimane si trascina tra Berlusconi, il suo staff, Palazzo Chigi e la stampa estera, che alla vigilia del G8 annuncia, e quindi per Berlusconi minaccia, nuove staffilate. Questa volta la forma di queste staffilate, di questi affondi contro Berlusconi, sono nuove fotografie piccanti, così annunciate a Villa Certosa. Berlusconi, come al solito, quando è aggredito risponde contrattaccando, e sentiamo come da Roma con Elisabetta Fiorito. Una morbosa campagna della stampa estera frutto di fotomontaggi, così Palazzo Chigi interviene su nuove pubblicazioni di foto a Villa Certosa e accusa il Sunday Times e il gruppo Murdoch, che hanno parlato della possibilità di immagini compromettenti per il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi alla vigilia del G8. Nessuna immagine può avere alcunché di imbarazzante per il premier, si spiega nella nota di governo. Le foto di cui parla il giornale inglese non corrispondono a fatti avvenuti e sono certamente frutto di manipolazione o di fotomontaggi digitali. La pubblicazione delle foto scattate a Villa Certosa, ribadiscono da Palazzo Chigi, è inibita da un provvedimento del garante sulla privacy e chiunque dovesse violare tale divieto, anche un giornale straniero, commetterebbe un palese reato. Certa stampa straniera insiste nel pubblicare menzogne e insinuazioni sul presidente Berlusconi, senza citare nomi né fonti. La nota di Palazzo Chigi segue un'intervista di Patrizia Daddario al País. La escort accusa: Palazzo Grazioli è un harem. Il G8 si è concluso ieri, ci sono stati gli attacchi della stampa estera a Berlusconi, ma alla fine direi meno compromettenti di quello che si poteva immaginare. Naturalmente appunto non sono mancate le staffilate, per esempio New York Times e Guardian hanno sparato durissimo sull'attendibilità del nostro paese, in particolare sui titoli, sui meriti che l'Italia ha per non solo organizzare ma addirittura far parte del G8. Non sono poi mancate le vignette un po' spinte, piccanti, ne segnalo una del Times, ad esempio con un Berlusconi con una giacca imbottita di biancheria intima e che tiene in mano un reggiseno che in realtà ha la forma di un 8 che poi è affiancato da una grande G, quindi il G8 a forma di reggiseno. Ma del G8 ci occuperemo poi più tardi dettagliatamente. Restiamo in Italia e ad uno show non esattamente edificante che ci regala martedì Matteo Salvini, nome emergente ma spesso anche un po' sopra le righe, diciamo così, della Lega. Ci racconta tutto Irene Privitera. Nelle immagini del video un gruppo di persone canta allegramente, diretto boccale di birra in mano da Matteo Salvini, deputato della Lega, capogruppo del Carroccio a Milano ed europarlamentare di fresca nomina. Il luogo è Pontida, provincia di Bergamo, sede dell'ultimo raduno annuale di partito. Il video è una miccia che accende le polemiche politiche. Per PD e Italia dei Valori sarebbero necessarie le dimissioni di Salvini. Il ministro della difesa, La Russa, pensa che il deputato dovrebbe scusarsi, ma per lui politica e razzismo non c'entrano nulla, si tratta di semplici cori da stadio. Vado allo stadio quando ho 15 anni, non ho mai gettato in campo neanche una carta di caramella, però almeno la rivalità di campanile lasciarcela, e ai politici chiedo di lavorare. Io da napoletano mi sentirei più offeso dalla Iervolino o da Bassolino che mi hanno sepolto di monnezza che non dai cori da stadio che si fanno da 40 anni a questa parte. Una voce fuori dal coro, quello della politica questa volta, è quella di Umberto Bossi che dice, ironico, Salvini dovrebbe dimettersi soltanto perché canta male. Scontate le polemiche sulla vicenda Salvini che credo seguiranno e forse perseguiteranno Salvini persino al Parlamento europeo. Giovedì comunque Salvini ha provato ancora a riparare, non so poi se questo sarà sufficiente, comunque testualmente Salvini ha detto chiedo scusa in ginocchio ai napoletani e a tutti quelli che si sono sentiti offesi da quel video, sono pronto ad indossare la maglia del Napoli all'Europarlamento e sinceramente in queste vesti vorremmo proprio vederlo. Comunque la Lega è stata al centro delle cronache di questa settimana non soltanto per le mosse ardite di Salvini ma anche per una polemica tutta interna alla maggioranza su colf e badanti straniere. Il problema è la necessità o meno di regolarizzare la loro posizione in Italia dopo appunto l'approvazione del pacchetto sicurezza. Giovedì si arriva ad un accordo, come ci spiega Massimo Di Scienza. La norma non riguarderà soltanto le collaboratrici straniere ma anche le italiane, tutte quelle che fanno parte di quel vero e proprio esercito di lavoratrici in nero che il governo mira a far emergere e poi a mettere in regola. Soltanto per le immigrate le cifre parlano di oltre 600.000 persone. Dopo le fibrillazioni interne alla maggioranza, con la Lega schierata contro l'ipotesi di una sanatoria, il governo ha ritrovato una linea comune grazie all'intesa tra i ministri Sacconi e Maroni. Le norme che riguarderanno sia colf che badanti, per la difficoltà a distinguere i due ruoli, dovrebbero comunque entrare in vigore a partire da settembre. La formula sarà quella della regolarizzazione selettiva dei rapporti di lavoro domestici. La selezione, secondo le prime indiscrezioni, avverrà soprattutto per le collaboratrici messe a contratto da datori di lavoro stranieri, a patto che questi siano in Italia da molto tempo. Una soluzione decisa per evitare che si ripetano casi di false colf e badanti già avvenuti in passato. Ci fermiamo adesso per qualche minuto, ma prima voglio ricordare, visto che stiamo parlando di politica, l'iniziativa di Di Pietro in settimana, per qualcuno apprezzabile, per altri deprecabile. Di Pietro si è comprato una pagina dell'Herald Tribune per denunciare il rischio dittatura in Italia. L'ottavo giorno. Domenica. È la giornata che nella nostra cronaca, nel nostro racconto dell'ottavo giorno, riserviamo di solito allo sport. E in effetti anche in questa domenica gli appuntamenti non mancano. Il calcio certo è in vacanza, anche se rimane sempre piuttosto scoppiettante grazie al mercato. Ma poi ci si può consolare con sport degnissimi, anzi nobilissimi, come il tennis, il ciclismo che apre il Tour de France e il mondo dei motori. Cominciamo proprio dalle moto perché domenica Valentino Rossi per poco non fa un'altra delle sue incredibili, pazzesche imprese negli Stati Uniti, dove peraltro è quasi un divo. Sentiamo la cronaca del Gran Premio degli Stati Uniti di Dario Ricci. È Dani Pedrosa il dominatore del deserto di Laguna Seca. Sul circuito americano liberico della Honda conquista a sorpresa il primo successo dell'anno. In testa dall'inizio alla fine Pedrosa, che ha preceduto Valentino Rossi e l'altra Yamaha di Jorge Lorenzo. Imbottigliato dal traffico al via, Valentino ha poi provato a inseguire Pedrosa, fin quasi a riacciuffarlo all'ultima curva. Troppo tardi stavolta, anzi il dottore ha faticato non poco a difendere la piazza d'onore dagli attacchi di Lorenzo, sempre aggressivo malgrado i postumi della caduta nelle prove di sabato. Quarta la Ducati di Stoner davanti al compagno di scuderia Hayden. In classifica mondiale Rossi guida con 151 punti, davanti a Lorenzo con 142 e Stoner a 135. Domenica è anche il giorno della finale di Wimbledon, il torneo più antico, forse anche più bello, sicuramente più prestigioso del tennis. Federer è il vincitore annunciato, ma in realtà contro Roddick viene fuori una finale inattesa, non bellissima direi dal punto di vista tecnico, ma avvincente. Da Londra la cronaca di Alessandro Merli. Una finale più bella dell'altra, la leggenda di Wimbledon ci ha regalato l'anno scorso lo scontro epico fra i due grandi rivali Roger Federer e Rafa Nadal, e quest'anno assente lo spagnolo ha aggiunto un altro capitolo di straordinaria intensità agonistica. Ieri sono state infatti oltre 4 ore punto a punto fra Federer e il sorprendente Andy Roddick, chiuse dal più lungo quinto set nella storia di Wimbledon. Roddick di finali contro Federer ne aveva già perse 2 e tutti lo davano per spacciato ancora prima di cominciare. Invece ha rischiato addirittura di andare in vantaggio per 2-0. Non ho avuto mai il controllo della partita, ha ammesso Federer dopo l'incontro, ma alla fine ha vinto lui 16-14 al quinto, un punteggio da volley, non da tennis. Ma come ha detto Federer stesso prima di lasciare il centrale, tennis is crazy, il tennis è pazzo. Paradossalmente quella che forse non è stata una delle sue migliori prestazioni lo ha incoronato per la 6ª volta re di Wimbledon e per la 15ª volta vincitore di un torneo del Grande Slam. Una in più di Pete Sampras, con il quale fino a ieri divideva il primato e che nonostante la sua nota avversione ai viaggi, ieri si è scomodato da Los Angeles per venire ad applaudire. 15 grandi slam, ha detto alla fine Sampras, per Federer non sono niente, può arrivare tranquillamente a 18-19. Anche se non lo facesse, il suo posto nella storia del tennis è assicurato. E adesso ritroviamo la voce di Dario Ricci, che martedì segue la stroboscopica, permettetemi di usare questo termine, presentazione di Cristiano Ronaldo davanti a 80.000 tifosi impazziti del Real Madrid allo mitico stadio Santiago Bernabéu, proprio della capitale spagnola. Stiamo parlando, lo ricordo, del giocatore più costoso della storia del calcio. Hoy damos la bienvenida a su nueva casa, a Cristiano Ronaldo. Ormai recita a memoria la sua parte Florentino Perez, il presidente del Real Madrid, quello che a suon di acquisti plurimiliardari ha fatto imbufalire anche quel gentiluomo di Michel Platini. Così aveva salutato Kakà e ora tocca a Cristiano Ronaldo. L'ex Manchester United, costato 94 milioni di euro, record nella storia del calcio, si trova davanti gli 80.000 del Bernabéu, a fianco i miti di Eusebio e di Stefano. Altro che Paris Hilton, viene da dire pensando a uno dei suoi innumerevoli flirt estivi. E allora, prima di qualche palleggio, trova giusto la forza di balbettare qualche emozionata parola. Non speravo che lo stadio sta pieno solo per me, non ha credito. Impressionante. È la serata di Florentino Perez, Cristiano Ronaldo e del rinato orgoglio madridista. Poi però si dovrà pur cominciare a giocare a calcio e allora potrebbe davvero essere tutta un'altra storia. Lunedì. Per Barack Obama questa è stata una settimana di molti incontri e molte trasferte che non sono ancora finite peraltro. C'è stato naturalmente il G8, che però è soltanto una tappa, seppur significativa, seguita e preceduta da altri appuntamenti importanti. Prima ad esempio c'è stato il vertice a Mosca e poi una tappa altrettanto significativa in Ghana, quindi nella sua Africa, nel senso che, lo sapete, una parte almeno di Obama proviene proprio dal continente africano. E tra l'altro, anche questo non credo sia un caso, prima di andare in Africa Obama è passato dal Vaticano, ha incontrato Benedetto XVI e forse avranno parlato proprio di Africa. Restiamo però per ora all'incontro Stati Uniti-Russia, stiamo parlando delle grandi rivali della Guerra Fredda. Prima la cronaca di lunedì con Antonella Scott da Mosca e poi il commento di Mario Pratello, che sta seguendo proprio il presidente americano in questa lunghissima trasferta. Tra le parole che Barack Obama e Dmitry Medvedev si sono scambiati ieri al Cremlino si nascondono frasi importanti. Mi fido di lui, ha detto il presidente americano, mentre il collega russo salutava l'inizio di una nuova era basata sul rispetto reciproco. Potrebbero essere queste le basi del reset, il rilancio dei rapporti bilaterali che questi due giorni di Obama-Mosca sono chiamati a testimoniare. testimoniare. Gli accordi annunciati sono soprattutto dichiarazioni di intenti, punti di partenza per il lavoro futuro. L'accordo quadro sulla riduzione delle testate nucleari, la commissione congiunta che affronterà la lotta al terrorismo, la non proliferazione dell'energia nucleare. Mosca ha aperto il proprio territorio al transito di materiale bellico verso l'Afghanistan. Gli Stati Uniti hanno accettato di discutere insieme il modo di affrontare minacce come quella iraniana. Forse sono risultati meno clamorosi di quanto si sperasse, forse saranno la strada giusta per ritrovare la fiducia. Avevamo molto da recuperare, ha detto Medvedev. Reset, si ricomincia, lo ha detto lo stesso Barack Obama ieri in conferenza stampa nella splendida sala dorata, luccicante, la sala di Sant'Andrea dove gli zar davano le decorazioni agli eroi di guerra. Ieri sono apparsi insieme Medvedev, Barack Obama, hanno cercato di ricucire una relazione che si era fatta difficile. In parte ci sono riusciti perché comunque si è avviato un negoziato che dovrebbe portare entro la fine di dicembre a un accordo che probabilmente sarà firmato a Washington per una riduzione di un terzo degli armamenti nucleari entro i prossimi 7 anni. Per il resto le differenze rimangono soprattutto sullo scudo difensivo. Gli americani hanno chiarito che non renderanno il progetto dello scudo difensivo che dovrebbe essere schierato in Polonia e nella Repubblica Ceca ostaggio del trattato START. Dunque due binari paralleli, al limite la Russia cercherà di entrare a far parte di questo progetto. Dialogo difficile dunque, ma un dialogo che riparte. L'importante è avere sempre la percezione ottimistica della possibilità di arrivare da qualche parte. Per ora Obama ci è riuscito. Più ad oriente, nel cuore dell'Asia che oggi è frammentato in una galassia di repubbliche ex sovietiche, nella notte tra domenica e lunedì scoppia l'inferno. Siamo ad Urumqi, città dello Xinjiang, questa immensa sconfinata regione della Cina occidentale che i più probabilmente neanche conoscono o non sanno indicare sulla cartina geografica, che è popolata da una forte minoranza musulmana degli Uiguri. Sentiamo allora da Pechino nel GR delle 7 di martedì la corrispondenza di Antonio Talia. È in aumento il bilancio ufficiale fornito dalla polizia cinese sugli scontri etnici di domenica scorsa a Urumqi, capitale dello Xinjiang, una provincia dell'estremo ovest della Cina ai confini col Pakistan. Sarebbero infatti 156 morti, più di 800 i feriti e circa 1400 le persone arrestate in quello che è il peggiore bagno di sangue di cui si ha notizia in Cina dai tempi del massacro di Tiananmen 20 anni fa. All'origine delle violenze ci sono le tensioni tra le due etnie della regione, da un lato i cinesi Han, la maggioranza in tutta la nazione, e dall'altro gli Uiguri, minoranza di origine turcomanna e fede islamica. Le versioni sulla scintilla che ha fatto scattare gli scontri sono ancora contrastanti, ma se le comunicazioni via internet e cellulare sono ancora semi bloccate e il traffico non è ancora tornato normale in tutta la città, stamattina circa 200 persone, principalmente donne, sarebbero tornate a manifestare chiedendo notizie dei familiari arrestati. Gli scontri e i problemi nello Xinjiang e a Urumqi proseguono per tutta la settimana. Tra l'altro le cifre dei morti non coincidono, ufficialmente sono 156 per le autorità cinesi, ma si parla addirittura di 800 morti secondo la resistenza uigura. E poi si segnalano costanti arresti, le moschee chiuse e uno stato comunque di tensione permanente. Al punto che Hu Jintao, il presidente cinese, preferisce addirittura disertare il G8 dell'Aquila per rientrare precipitosamente in patria, in Cina. Dopo però un incontro importante, ricco anche di spunti pratici, di contratti firmati, con le più alte cariche italiane. Risentiamo da Roma Andrea Viani. È il presidente della Repubblica Napolitano ad affrontare la delicata questione del rispetto dei diritti umani nel corso della visita in Italia di Hu Jintao e l'appello lanciato dal capo dello Stato arriva a poche ore dalla notizia delle proteste represse nel sangue nella regione cinese dello Xinjiang. Col presidente Hu Jintao abbiamo anche potuto concordare sul fatto che lo stesso sviluppo e progresso economico e sociale che si sta realizzando in Cina apre nuove prospettive e pone nuove esigenze in materia di diritti umani. È stato invece il tema delle relazioni economiche fra Italia e Cina al centro dei colloqui fra il presidente cinese e il premier Berlusconi. Relazioni bilaterali che si sono sviluppate di oltre il 20% in quest'ultimo anno, seppure anno di crisi, che stanno veleggiando verso i 38 miliardi di euro. e che contiamo di sviluppare molto di più in futuro. Pechino considera Roma un partner strategico e rafforzare i rapporti bilaterali con l'Italia è la linea politica della Cina, ha sottolineato dal canto suo Hu Jintao, che ieri ha incontrato anche i presidenti di Camera e Senato, Fini e Schifani. Per chiudere questa nostra lunga pagina di esteri, adesso ci trasferiamo in Iraq, dove dal 30 giugno è scattato il ritiro americano, ma la situazione rimane ancora molto incandescente. Micaela Nasca. Attentati a ripetizione, 4 in poche ore, almeno 41 vittime, tra cui molte donne e bambini. È l'Iraq di questa mattina. Sono gli attacchi più sanguinosi da quando il 30 giugno le truppe statunitensi hanno iniziato a ritirarsi e l'ordine pubblico è nelle mani della polizia locale. A Tal Afar, una cittadina multietnica nel nord del paese, in cui convivono curdi, turcomanni ed arabi, sono morte 34 persone, 60 rimaste ferite, in un doppio attentato suicida in un quartiere residenziale della città. L'obiettivo fallito dell'attacco era colpire due fratelli poliziotti che lavorano per un'unità antiterrorista. Un primo kamikaze imbottito di tritolo si è fatto esplodere in mezzo alla folla nei pressi della loro casa. Pochissimi minuti, il tempo necessario perché le persone accorressero sul luogo dell'attentato ed è saltata in aria la seconda bomba umana. Poco prima, Sadr City, lo sterminato sobborgo sciita di Baghdad, dove vivono circa 2 milioni di persone, un'altra duplice esplosione ha fatto 7 vittime e 20 feriti. Secondo la polizia, gli ordigni in questo caso erano stati nascosti in mezzo ai rifiuti del mercato. È un'escalation di violenze dal giorno della festa di liberazione. Nelle strade della capitale il 30 giugno scorso si viveva con entusiasmo il ritiro statunitense, anche se alcuni confessavano di temere che il paese non fosse in grado di andare avanti da solo. È ancora presto per dirlo. La cosa certa è che i festeggiamenti per la riconquista della sovranità nazionale devono ancora aspettare. L'ottavo giorno. Martedì. Si svolgono i funerali solenni di Stato per le vittime dell'incidente ferroviario di Viareggio. Nel frattempo i morti sono saliti a quota 23, quindi bilancio davvero drammatico, perché giovedì è morta una ragazza di 23 anni che era ricoverata in gravissime condizioni a Genova. Ma torniamo ai funerali di martedì con Raffaella Calandra. Non è solo caso e fatalità. Perché, chiede più volte l'arcivescovo di Lucca e più volte invoca più sicurezza sul lavoro. 15 delle 22 bare sono sul prato dello stadio e davanti all'Italia che piange le vittime del peggior disastro ferroviario dal dopoguerra, un'unica richiesta arriva da Monsignor Italo Castellani nell'omelia, poi dall'imam della moschea di Roma, quindi dal Presidente della Repubblica. Accertare la verità. Ricostruire un percorso di senso e di verità, perché sia riconsegnata in particolare ai nostri fratelli morti e feriti una dignità. Si deve far chiarezza, questa è la premessa, prima ancora di verificare se ci sono responsabilità. 3 mesi dopo il terremoto dell'Aquila, il presidente Napolitano è di nuovo in un prato a Capochino, davanti ad una fila interminabile di bare, a portare il dolore dell'Italia intera e poi in un ospedale a visitare i feriti. Viareggio e l'Aquila insieme a piangere la propria gente, e allora, come oggi, il capo dello Stato sollecita risposte e verità per quei morti e per chi, come Leonardo, come la giovane marocchina Yad, sono rimasti soli dopo che il fuoco del GPL ha travolto la loro famiglia. Sul loro dolore calano le note dell'Angelicus Panis intonate da Bocelli. Sempre martedì si svolge un altro funerale lontanissimo da Viareggio, di tutt'altro genere e con uno stile ben diverso. Sto parlando dei funerali di Michael Jackson. In realtà è stato più un concerto di commemorazione del re del pop, così era stato ribattezzato Michael Jackson, a Los Angeles, un avvenimento pieno zeppo di stelle dello spettacolo, ma anche dello sport. Qualcuno francamente sembrava recitare una parte, anche se poi Larry King, il mitico commentatore della CNN, proprio commentando l'avvenimento, ha detto che rimarrà un evento storico. Sentiamo il racconto per Radio 24 di Roberta Giordano. Daddy has been the best father you could ever imagine. Il migliore dei padri. A dispetto della sua vita controversa e chiacchierata, così lo ha definito sua figlia Paris Catherine, di 11 anni. Certo, essere il re indiscusso del pop, mito ormai inscalfibile della storia collettiva, era ciò di più grande a cui Michael Jackson potesse ambire. Ma chi l'avrebbe mai pensato, tuttavia, con la sua vita tormentata, il migliore dei padri? Può quindi riposare davvero in pace, Jacko. A ricordarlo, oltre alla sua bimba scoppiata poi in lacrime, c'erano allo Staples Center di Los Angeles 11.000 fan, un numero limitato per questioni di sicurezza rispetto al 500 milioni di persone che ha cercato di avere i biglietti per partecipare ieri al grande memoriale che si è tenuto appunto nello stadio dei Los Angeles Lakers. E naturalmente c'erano gli amici più cari, tra cui Lionel Richie e Brooke Shields, Stevie Wonder e Mariah Carey, e i familiari che in mattinata avevano partecipato al rito funebre privato. A sorpresa, rispetto a quanto era stato annunciato, la salma di Michael era lì, sul palcoscenico, in un feretro dorato, coperto di gladioli rossi. La cerimonia concerto, seguita in TV da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, probabilmente un record assoluto per un evento televisivo di questo tipo, è stata aperta alle 10.10, 19.10 ora italiana, dai messaggi inviati dall'amica Diana Ross e dall'ex presidente del Sudafrica Nelson Mandela. Ed è poi proseguita a metà strada tra una commemorazione funebre e un concerto rock. Se vieni al mondo sapendo di essere amato e lo lasci sapendo la stessa cosa, ha detto una volta il re del pop, allora tutto ciò che nel frattempo è accaduto sarà valso la pena. Ci pare proprio, caro Michael, che sia stato così. Mercoledì. Mentre all'Aquila è in corso il G8, a Roma, quindi a pochi chilometri di distanza, si svolge l'assemblea annuale dell'ABI. La crisi anche qui è all'ordine del giorno. Protagonisti della giornata romana sono il governatore della Banca d'Italia Draghi e il ministro dell'Economia Tremonti. Sentiamo allora su questo i servizi prima di Paola Cavadi e poi di Chiara Di Michele. Un monito alle banche perché non facciano mancare il sostegno finanziario alle imprese. Il governatore di Banca Italia Mario Draghi, ieri ospite dell'assemblea annuale dell'ABI, ha bacchettato gli istituti di credito colpevoli di aver ridotto il flusso del credito alle imprese. Il credito al settore privato rallenta ancora. La contrazione riguarda le imprese, mentre i prestiti alle famiglie continuano ad espandersi. È particolarmente intensa la decelerazione dei prestiti erogati dai gruppi bancari maggiori. Troppi automatismi nella valutazione delle aziende che meritano i prestiti, ha detto Draghi, rischiano di far mancare ossigeno proprio a quelle imprese che hanno le capacità per uscire dalla crisi. Per il governatore, poi, le banche devono risolvere una volta per tutte la questione del massimo scoperto. Basta con commissioni opache e complesse, così le ha definite, gli istituti siano più trasparenti e impongano costi più ragionevoli per i risparmiatori. Che non è possibile uscire con commitment fees del 4% in un periodo come questo. In arrivo una task force dell'Istituto di Via Nazionale sui compensi dei manager bancari. Si occuperà, ha detto il governatore, di verificare i meccanismi di remunerazione dei dirigenti. È giunto il tempo di un nuovo inizio fra banche, imprese e governo. L'invito è del ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che lancia la sua proposta. Da un lato una moratoria delle banche sui crediti alle imprese, dall'altro il governo offrirà sgravi fiscali agli istituti di credito in sofferenza a causa del temporaneo stop dei pagamenti dovuti dalle imprese, così il ministro Tremonti ieri all'assemblea dell'ABI. Abbiamo una comune responsabilità verso il nostro paese. Quanto è stato fatto è stato necessario, ma ora può essere necessario fare di più. Qualcosa che va tutti insieme concordato e dettagliato. Qualcosa che può prendere la forma di un avviso comune da produrre subito, prima di agosto. Tremonti affronta anche il nodo regole, assicurando che il governo italiano si sta attivando con altri governi europei per modificare i principi contabili cosiddetti IAS 39 e Basilea 2, che fissa le regole per il rilascio del credito alle imprese. Sui lavori dell'ABI adesso riascoltiamo il commento nel GR delle 7 di giovedì firmato dal nostro Sebastiano Barisoni. Dopo mesi di stilettate tra banche da una parte e imprese e governo dall'altra, è stato proprio chi il fioretto non aveva mai esitato ad utilizzarlo, ossia Giulio Tremonti, a proporre una cessazione delle ostilità per trovare un fronte comune. Il ministro dell'economia ieri, infatti, di fronte al gotha bancario, ha parlato esplicitamente della necessità di un nuovo inizio nei rapporti tra mondo del credito e quello dell'impresa, e per mostrare che il governo sarà parte attiva di questo nuovo clima ha calato due assi sul piatto. Tremonti ha detto infatti che il governo è pronto a rivedere la tassazione sulle sofferenze bancarie, ma a patto che le banche attuino una moratoria sulle scadenze dei crediti alle imprese. E non solo, per rafforzare l'invito a delle soluzioni condivise, il ministro ha anche fatto capire che il governo sta lavorando sulle regole con cui le banche devono valutare il credito da concedere, il cosiddetto Basilea 2, perché, come ha sottolineato, non sono mica state scritte sul Monte Sinai. E che l'invito ad un nuovo inizio sia stato esplicito e forte lo confermano anche le adesioni subito arrivate dai diretti interessati. Tant'è che se il presidente delle banche, Faissola, ha apprezzato la proposta del ministro, la presidente degli industriali, Marcegaglia, ha annunciato che già dalla prossima settimana banche, governo e imprese si incontreranno per discutere di moratoria sulle scadenze dei crediti. Un nuovo clima, quindi, reso probabilmente necessario da quello ben più pesante che si rischia di respirare a settembre, quando, finite le ferie, le imprese riapriranno i battenti. E sempre per restare al versante economico, tra mercoledì e giovedì quasi fossero d'accordo. In coppia si pronunciano prima il Fondo Monetario Internazionale e poi la Banca Centrale Europea. Ecco i punti salienti dei loro interventi con Paolo Piacenza e Anna Marino. Il Fondo Monetario aggiorna il World Economic Outlook e dipinge un quadro a due facce. Da un lato le condizioni economiche sono migliorate più del previsto, dall'altro la recessione globale non è finita e soprattutto la ripresa si annuncia lenta. Secondo il capo economista del fondo, Olivier Blanchard, l'economia mondiale è agitata da due forze contrastanti e ha bisogno di una exit strategy nella consapevolezza che la disoccupazione continuerà a crescere probabilmente fino all'anno prossimo. La stima di Washington sul PIL globale nel 2010 sale a più 2,5%, 6 punti in più rispetto alle previsioni di aprile, mentre peggiora a meno 1,4% quella per il 2009. Per l'Italia scendono addirittura a meno 5,1% le stime sul PIL per l'anno in corso, mentre migliorano a meno 0,1% quelle per il PIL del 2010. Sul fronte dei dati reali, ieri sono arrivate anche le cifre di Eurostat sul PIL nel primo trimestre dell'anno, meno 2,5 in zona euro rispetto al trimestre precedente, meno 4,9 su base annua. In Europa la classifica della recessione coinvolge tutti tranne Polonia e Cipro. La peggiore resta la Germania, meno 3,8%, seguita dall'Olanda ed Austria e Italia, entrambe a meno 2,6%. Gli interventi in soccorso delle banche che i paesi di Eurolandia hanno messo in piedi a causa della crisi avranno un forte impatto sui conti pubblici nel 2009. La BCE nel bollettino del mese di luglio calcola infatti un picco di circa il 20% del PIL dell'area. Tutte insieme le misure introdotte porteranno a un aumento del debito pubblico nell'area euro pari al 3,3% del PIL entro la fine di quest'anno. Tra i big dell'eurozona, gli squilibri di bilancio colpiranno la Germania con un impatto massimo previsto che sale al 18,7% e intorno al 35% per Paesi Bassi, Belgio e Slovenia. Nessun impatto invece degli interventi a sostegno delle banche in Italia, dove di fatto non sono stati effettuati salvataggi. Promossa dalla BCE la sforbiciata di oltre 3 punti in soli 7 mesi dei tassi che si sta trasmettendo sui prestiti a famiglie e imprese. E la Banca Centrale conferma uno spiraglio per il futuro. Dopo una persistente debolezza nel resto del 2009 e una stabilizzazione, l'economia di Eurolandia tornerà a registrare tassi di crescita positivi del prodotto interno lordo entro la metà dell'anno prossimo. L'ottavo giorno. Giovedì. Ci stiamo inesorabilmente avvicinando a quello che è il nostro momento topico, ma è stato il momento topico di tutta l'informazione in questa settimana, cioè il G8 di L'Aquila, poi con il suo ricco corredo di notizie, di fatti, di personaggi. Ma per il momento, per la giornata di giovedì, ci concentriamo su due processi che segnano in questa settimana una svolta sicuramente importante, forse anche decisiva, chi lo sa. Sto parlando di due processi che sono legati poi a due terribili omicidi, diversi tra loro, ma che hanno segnato le cronache degli ultimi anni. Cominciamo dalla sentenza in appello che giovedì arriva del delitto Reggiani. I dettagli con Maria Luisa Pezzali. Ergastolo e 6 mesi di isolamento diurno. La prima corte d'assise d'appello di Roma inasprisce la condanna per Romulus Nicolae Mailat, il 29enne romeno accusato dell'omicidio di Giovanna Reggiani, la donna violentata e uccisa a Roma il 30 ottobre 2007 nei pressi della stazione di Tor di Quinto. In primo grado, nell'ottobre scorso, i giudici avevano ridotto la pena a 29 anni di carcere, riconoscendo a Mailat le attenuanti generiche per la sua giovane età e per il fatto che fosse incensurato. Attenuanti escluse invece dai giudici di secondo grado che hanno accolto quanto sostenuto dal sostituto procuratore generale Cozzella nella sua requisitoria. Il fatto contestato è troppo grave e di crudeltà inaudita. La difesa del giovane preannuncia battaglia in Cassazione, sostenendo che le prove non ci sono. Le prove sono schiaccianti, è una decisione giusta, ribatte il legale di parte civile Tommaso Pietro Carlo, che assiste l'ammiraglio Giovanni Gumiero, vedovo di Giovanna Reggiani. Testimoni oculari, riscontri anche medico-legali, credo che siano sufficienti, anzi. Sempre per restare a Roma e nell'ambito della cronaca, ricordo che ieri è stato arrestato il presunto stupratore seriale, quindi anche su questo si apre un nuovo fronte e speriamo definitivo nelle indagini. E intanto, nelle stesse ore in cui veniva emessa la sentenza d'appello per il delitto Reggiani, ad Arezzo, ore decisive nel processo per la morte del tifoso laziale Gabriele Sandri. Infatti arrivano le richieste dell'accusa, ce le racconta Irene Privitera. L'accusa è di omicidio volontario con dolo eventuale. Quando l'agente Luigi Spaccarotella puntò l'arma contro il tifoso della Lazio, Gabriele Sandri, aveva ben chiaro il pericolo di uccidere. Lo spiega il PM impugnando una beretta giocattolo di fronte alla corte e usando queste parole. E quando è arrivato lì ha puntato, lo ha messo il dito sul grilletto, cioè lo ha rimesso. 21 anni la pena prevista per l'accusa di omicidio volontario, ma per Spaccarotella ne sono stati chiesti soltanto 14. La riduzione di un terzo è dovuta alle attenuanti generiche. Tutto si è svolto in pochi minuti, ha detto il PM, che ha aggiunto: la gente ha distrutto una vita, ma anche la propria. Poi l'analogia fra il dolore delle due famiglie, che non è piaciuta al legale dei Sandri, Michele Monaco. Sono stato da una parte soddisfatto perché c'è stata una richiesta con un giudizio di responsabilità per omicidio, dall'altra un po' amareggiato perché ha fatto un parallelo tra le sofferenze della famiglia Sandri e le sofferenze della famiglia Spaccarotella, che non mi sembrava il caso di fare. La famiglia Sandri, parte civile nel processo, chiede intanto 500.000 euro come anticipo del risarcimento che spetterà loro al termine del procedimento. Venerdì. E allora ce lo siamo tenuti per in fondo questo G8 dell'Aquila che si è concluso ieri. Abbiamo poco tempo, insomma, e quindi potevamo in realtà farci un'intera puntata su quello che è successo in Abruzzo per discutere perlomeno dei contenuti dentro questo G8, ma soprattutto per il dibattito che si è innescato attorno, sopra, sotto il G8, scegliete voi, insomma, sulla sua utilità o meno, se sia il caso di allargarlo ad un G14 o addirittura un G20. Poi ci sono stati tutti gli attacchi all'Italia e alla sua leadership, gli appuntamenti collaterali anche mondani, la protesta dei terremotati abruzzesi. Direi che quel Yes We Camp resterà comunque una delle immagini salienti di questo G8. Intanto noi ci riascoltiamo la cronaca di mercoledì firmata dall'inviato all'Aquila Sergio Nava. Consenso generale su tutto o quasi, ma poche misure concrete per dare seguito alle promesse. Si è conclusa così la prima giornata del G8 all'Aquila, dove a tenere banco sono stati soprattutto tre temi: economia, ambiente e aiuti all'Africa. Sul primo punto gli 8 mantengono alta l'attenzione. Ci sono segni di stabilizzazione della crisi, scrivono nel comunicato di fine giornata, ma la situazione resta incerta e permangono rischi per la stabilità economico-finanziaria. Sì, invece, alla lotta al protezionismo e all'evasione. L'Italia incassa il via libera sui Global Legal Standard, le 12 nuove regole etiche della finanza, come osserva il Premier Berlusconi. In modo che si possa uscire da questa crisi anche preparando un codice di principi, di valori, di regole che possano far sì che in futuro non si ripeta ciò che oggi invece è successo. Ma si tratta solo di un primo passo, nessuna codifica, nessun trattato ufficiale, almeno per il momento. Se ne riparlerà al G20 di settembre e ancora oltre. Anche sul clima, obiettivi raggiunti solo parzialmente. Gli 8 hanno fissato in 2 gradi il tetto massimo di aumento della temperatura globale, proponendo una riduzione delle emissioni nocive pari al 50%. Ma oggi se la dovranno vedere con le economie emergenti, soprattutto India e Cina, meno disponibili a concessioni così nette. Infine il capitolo africano, con il rinnovo di un impegno per gli aiuti già sottoscritto a Green Eagles e già snobbato da diversi paesi, Italia e Francia in testa. Anche per questo Berlusconi ha promesso nuovi aiuti entro l'anno. La conferenza stampa del Premier ha avuto un finale anomalo, forse per timore di domande ostiche. Berlusconi ha finto di chiedere interventi della stampa. Se avete organizzato delle domande, vi do risposta. E senza però guardare la platea, ma il portavoce Bonaiuti, che faceva segno di no, il Premier ha sentenziato: non ci sono domande. Lasciando di sasso i reporter che la mano l'avevano alzata. Oggi forse avranno miglior fortuna. Le polemiche tra Berlusconi e almeno una parte dei giornalisti italiani, chissà ancora per quanto, andranno avanti. Noi restiamo ai temi e alle decisioni prese dentro il G8. Questa è l'opinione di Stefano Silvestri nel GR delle 8 di ieri. Ricordo Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. L'intervista è di Alessio Maurizi. Gli impegni del G8 sono impegni politici. C'è un istituto canadese che da 20 anni studia il G8, che si ha fatto una tabella, la tabella della compliance, cioè di come i vari paesi hanno applicato quello che si sono impegnati a fare nei vari G8. E diciamo che quando va proprio bene arriviamo al 50%, ma per esempio l'anno scorso si è arrivati a un 16% medio complessivo. L'Italia è tra i fanalini di coda, naturalmente, perché noi promettiamo molto, poi non abbiamo i mezzi per mantenere, ma direi che anche gli altri non brillano per coerenza. Assieme ai leader dei paesi del G8 convenuti all'Aquila, anche la First Lady più George Clooney hanno avuto la loro parte in questa kermesse abruzzese. Carla Bruni, la premier dame francese, si è fatta un po' attendere, poi alla fine ha fatto un giro tra le macerie, ma direi che la vera star al femminile del G8 è stata sicuramente Michelle Obama, davvero impeccabile poi in quell'abito giallo con cui ha aperto la sua presenza in Italia. La sua giornata romana di mercoledì in questo servizio di Elisabetta Fiorito. Gli occhi sono puntati su di lei e lei, Michelle Obama, non delude le aspettative del G8 delle First Ladies. Indossa un abito giallo senza maniche, fiocco verde e scarpe pitonate. Sbiadiscono le altre First Ladies, quasi tutte in nero, in visita al Papa, mentre lei al Quirinale conquista Clio Napolitano, che la definisce brillante alla mano, poi in Campidoglio, dove trova ad accoglierla Isabella Rauti, moglie del sindaco Gianni Alemanno. Beh, era molto elegante e devo dire che da vicino è decisamente bellissima, di grandissima classe. Pranzo per tutte sulla terrazza Caffarelli, menù di Heinz Beck, cucina romana ingentilita. Dono una borsa con materiali riciclati per aiutare le donne d'Africa. Al termine, Michelle redarguisce Alemanno, si comporti bene con sua moglie, suggerisce, e la signora Rauti aggiunge. Sì, io ho risposto e mi permetterò di ricordarglielo ogni giorno, ogni mattina. E ieri il G8 è finito all'Aquila con l'accordo tra i grandi della terra per stanziare per l'Africa, per la fame nel mondo, 20 miliardi in 3 anni. Segnaliamo anche il corteo di No Global, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, nessun incidente di rilievo, quando ormai forse Obama era già lontano, era prima passato da Roma per un importante, seppur breve, incontro con il Papa e poi è volato alla volta dell'Africa, della sua Africa e del Ghana. Chiudiamo questa puntata dell'ottavo giorno con l'ottava notizia della settimana, una notizia, se volete, a sfondo medico, perché giovedì arriva un allarme, perlomeno un segnale di allarme per il nostro paese, perché è in aumento il consumo dei farmaci. Ci spiega tutto Maria Chiara Grandis. Promuovere un corretto uso dei farmaci sia da parte della popolazione sia da parte dei medici. È questo l'obiettivo dell'Istituto Superiore di Sanità, come spiega Roberto Raschetti, responsabile del rapporto OSMED, perché oggi gli italiani consumano il 60% di farmaci in più rispetto al 2000, ossia una dose e mezza a testa al giorno. A crescere anche il consumo dei medicinali generici, mentre la spesa è stabile a 24 miliardi di euro per il calo dei prezzi. I più diffusi sono quelli per le malattie cardiovascolari e gli anziani i maggiori consumatori. Ne assumono il 70% del totale. Le donne ne prendono più degli uomini e aumentano le prescrizioni per i bambini. Per problemi legati alla stagione, infezione delle vie respiratorie, per i quali poi vengono utilizzati i farmaci antibiotici, antibatterici. Sono le regioni meridionali quelle in cui il consumo è più diffuso. Pietro Folino Gallo, direttore dell'Osservatorio sull'impiego di medicinali, spiega perché. Entrano in gioco delle variabili demografiche, le abitudini prescrittive dei medici e relative al controllo esercitato dalle regioni sui consumi. Siamo arrivati alla fine, ricordo la mail per chi ci vuole scrivere, ottavogiorno@radio24.it. Ringrazio in regia Paolo Corleoni e come sempre vi do appuntamento alla settimana prossima, sabato alle 10 oppure in replica alle 23.